Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. Friedrich Wilhelm Nietzsche. Bentrovati in giardino. Da qualunque regione ci seguiate, qui il colore è sempre lo stesso, il verde, che ci rinfranca, ci ingentilisce, ci dà speranza, tanto da farci guardare al futuro. Che giardini ci aspettano? Come declineremo il verde nelle grandi città, nei mesi e negli anni a venire, dopo l'esperienza che stiamo passando? Una domanda che avrà una risposta concreta nella prossima edizione del Radice Pura Garden Festival, la biennale del giardino mediterraneo in Sicilia, dove i giardini del futuro, questo il tema, saranno lì ad aspettarci. Ma il futuro è fatto anche dei parchi, dei giardini storici, artistici che abbiamo in Italia, quella bellezza dietro l'angolo che già l'estate scorsa abbiamo imparato a riscoprire e ad amare. Anche se autunno e anche se molti di noi sono costretti a rimanere in casa, il patrimonio verde del nostro paese lo possiamo godere, in vista delle prossime visite, anche online. Come? Ce lo spiega Giuseppe Lamastra, coordinatore dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia. Ben trovato. Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori. Perché parliamo dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia? Perché ha messo a disposizione, diciamo, un nuovo strumento per conoscere, individuare, scegliere le cosiddette bellezze dietro l'angolo che abbiamo in casa nostra. Non voglio essere la solita retorica, l'Italia è il giardino d'Europa, però abbiamo dei patrimoni da questo punto di vista notevolissimi ed è giusto metterli in luce. È stato peraltro inaugurato da pochissimo, aperto da pochissimo, un nuovo strumento online che si chiama Garden Route Italia. È così, è esattamente così. Direi che è interessante anche sottolineare questa idea di Italia Giardino d'Europa, che è quasi un topos, un luogo comune anche delle descrizioni letterarie dal Settecento in avanti. L'Italia è ricchissima di giardini da sempre, quantomeno dal Rinascimento in avanti, ma sorprendentemente ce ne sono moltissimi anche realizzati nel corso del Novecento e fino ai nostri giorni. Però l'intero paesaggio è stato spesso percepito, letto come un giardino. Per cui noi in questo sito abbiamo voluto raccontare i giardini d'Italia attraverso una serie di itinerari. Abbiamo in questa prima fase, ma il progetto prevede uno sviluppo nei prossimi mesi, inserito 200 giardini e 30 itinerari, e vogliamo raccontare i giardini in rapporto anche al contesto paesaggistico, al fluire delle stagioni, in modo tale che se ne abbia un'idea più ampia, ma soprattutto in relazione al contesto. Al momento ci sono 200 giardini e 30 itinerari, un progetto in sviluppo, l'hai detto, ma io credo che un progetto come questo sarà in sviluppo non solo nei prossimi mesi, ma per sempre, perché troveremo sempre delle nuove chicche in Italia legate al giardino e al paesaggio. Cosa dice? Direi proprio di sì. Abbiamo inizialmente dato chiaramente uno spazio alle cose che non potevano mancare, quindi i grandi giardini storici, chiaramente da Caserta al Parco di Monza, la Villa Reale di Monza, la Venaria Reale, via dicendo, ma nel tempo vogliamo aprirci anche al tema del collezionismo privato, ad esempio, che ancora è estremamente vitale ed interessante. Allora, ci sono non soltanto i giardini segnalati all'interno di gardenrouteitalia.it, voglio essere chiara per quanto riguarda l'indirizzo, ci sono anche degli itinerari tematici, diciamo, quindi una sorta di guida online. Esattamente, l'idea è stata quella di dar vita a degli itinerari che possono essere o topografici o tematici, quindi o legati a un singolo territorio, in modo tale che lo si possa scoprire chilometro dopo chilometro, perché in alcune aree del paese ci sono grandi concentrazioni storicamente di giardini, penso ad esempio alla Lucchesia, ai Colli Euganei, a tutto il Veneto, in realtà molte aree del Piemonte e della Lombardia, anche al sud, e però abbiamo affiancato a questi itinerari legati al territorio dei grandi itinerari tematici, creando itinerari dedicati ad esempio ai labirinti, ai giardini reali e dinastici attraverso il paese, giardini d'autore del Novecento, e poi c'è un itinerario anche molto interessante dedicato alle donne, a grandi figure di committenti giardiniere. E le donne hanno fatto la storia del giardino, è così, anche l'Italia è caratterizzata da grandi giardiniere, anche arrivate dall'Inghilterra, anche arrivate dall'estero, che poi qui in Italia hanno creato veramente dei gioielli. Sì, sono spesso donne di formazione internazionale, legate da un punto di vista culturale, oltre che sociale, alla cultura anglosassone, che portano la loro cultura, la loro sensibilità e non da ultimi i loro mezzi finanziari nel nostro paese, dando vita a luoghi straordinari. Facciamo qualche esempio. Beh, ce ne sono parecchi. Penso ad esempio alla Villa Gandaraia a Firenze, penso a Villa Boccanegra in Liguria, penso ad una realtà straordinaria come la Villa La Foce, realizzata su committenza di Iris Origo in Toscana, nel Senese, che è uno dei luoghi di maggior fascino tra quelli presenti all'interno della Garden Route. Ecco, mi ha anticipato, volevo giusto chiederle una segnalazione su tutte, tra quelli elencati e descritti in gardenroute.it, e lei ci ha già segnalato Villa La Foce, in Val d'Orcia, nel Senese, opera di Iris Origo. Perché è un luogo così straordinario? È un luogo straordinario perché negli anni 20 del Novecento questa straordinaria figura femminile fu anche scrittrice, ha realizzato una biografia di Leopardi, ha scritto opere come Il Mercante di Prato e In Guerra in Val d'Orcia, decide con il marito di acquistare il Marchese di Origo, una grande tenuta abbandonata nel Senese, e crea un giardino affidandone la realizzazione ad un architetto inglese, Cecil Pinsent, che si rifà ai modelli del giardino rinascimentale italiano, ma unendo anche però a questo dei tratti di sensibilità britannica, per cui ci sono siepi topiate, ma c'è anche poi la tradizione delle bordure all'inglese con splendidi anemoni giapponesi, ci sono lavande, ci sono piante di grande interesse. E la cosa interessante è che in questa, con uno dei temi che in qualche modo il sito vuole sottolineare, il rapporto giardino-paesaggio, il giardino non vive in solitudine in rapporto al territorio, ma è parte di una sistemazione molto più complessa del territorio. Viene rivitalizzata un'intera tenuta agricola di più di 1000 ettari, vengono riattivati i poderi e viene ridisegnato il paesaggio tipico della Toscana, avendo nella progettazione, direi negli occhi e nel cuore, la grande tradizione della pittura del Rinascimento. Tutto questo in Val d'Orcia. Il giardino La Foce in Val d'Orcia è uno dei tantissime possibili mete in Italia. Certo, questo è un momento di chiusure. L'Italia divisa in zone, ci sarà chi potrà tranquillamente fare una passeggiata e visitare un giardino o un parco, chi non lo potrà fare, ma è tutto temporaneo. Questi sono i giardini del futuro, questo è uno strumento da studiare adesso per poi poterci godere le nostre mete a primavera o comunque nei prossimi mesi. Perché bisogna dire che se proprio vogliamo trovare un lato positivo a tutto quello che ci sta capitando è che il Covid e la conseguente clausura ci hanno indotto, come stiamo ripetendo in queste puntate del Giardino Segreto, ad avvicinarci di più alla natura, alle piante, all'ambiente, a sentirne davvero la mancanza e anche a riscoprire il nostro territorio, le nostre bellezze dietro l'angolo, quelle che si possono godere e raggiungere senza aereo e senza treno. Almeno questo è un lato positivo. Direi che forse ha esasperato in qualche modo o reso più urgente una tendenza che in realtà era già in atto, e quindi direi che è un'ottima occasione questa, quella di ricominciare a riscoprire il territorio, di riprendere anche una forma di fruizione culturale attraverso i giardini, che possono davvero diventare protagonisti anche di un modo diverso di guardare al nostro patrimonio. Finora chi voleva una bussola per quanto riguarda questi patrimoni verdi, in internet trovava ad esempio Grandi Giardini Italiani oppure anche i Giardini del FAI. Ecco, Garden Route Italia raccoglie anche giardini, parchi, paesaggi già accolti in altri siti, naturalmente. Sì, sì, certamente, ma la nostra logica è quella, lo è sempre stato, insomma, è in qualche modo in sintonia con le motivazioni che hanno visto nascere l'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, è quella di tenere insieme tutti e di poter mostrare in un unico luogo, in questo caso nel portale Garden Route Italia, ciò che prima trovava visibilità in tanti siti o in tanti luoghi diversi. Quindi una sorta di mappatura generale che finora non era ancora stata creata. Per chi ama il mare, tra gli itinerari ci sono naturalmente i giardini di mare, ci sono i giardini esoterici, allora mi viene in mente Bomarzo nel Viterbese, anche questi giardini sono eccezionali. Ci sono anche i giardini di agrumi, i giardini mediterranei, per chi ama le dinastie, i giardini reali, insomma, c'è questa possibilità che sarà, lei mi diceva, poi accresciuta naturalmente nei prossimi mesi. Non solo crescerà il numero dei giardini e degli itinerari, ma verranno poi incrementate anche le sezioni tematiche, perché noi abbiamo dato vita a 3 sezioni tematiche, arte, natura e paesaggi, che nel tempo riceveranno contenuti, e l'idea è di dar vita ad un sito che possa essere, come dire, letto e fruito anche prima del viaggio, quasi a prescindere dal viaggio per certi versi, dando opportunità di approfondire molte tematiche che magari finora non sono state, come dire, divulgate, non sono diventate patrimonio comune, non so, dai teatri di verdura al tema del rapporto giardino-paesaggio, al tema del collezionismo botanico, e che invece potranno essere, come dire, alla portata di tutti. No, veramente, i temi sono infiniti da questo punto di vista. L'Associazione Parchi e Giardini d'Italia in questo progetto ha lavorato in concerto con MIBACT? Sì, sì, sì, è un progetto realizzato in accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che ha, diciamo, creduto nella opportunità, nell'importanza di questo progetto. Aggiungo un'ultima cosa: chiaramente il tema è quello anche di contribuire ad un rilancio del turismo in una fase così delicata, e mi sembra interessante sottolineare il fatto che il progetto è stato pensato in un momento in cui all'ordine del giorno c'era la necessità di distribuire i flussi turistici sul territorio per rendere meno forte la tensione sui grandi attrattori. Oggi invece questo tema, il tema dei giardini, del paesaggio, delle ville, anche delle dimore storiche che sono associate ai giardini, diventa invece il punto di partenza per una ripresa della fruizione culturale. Quindi, come dire, in realtà l'idea di un turismo sostenibile, di un turismo molto più vissuto in modo consapevole da parte delle persone, che riparta dalla scoperta del territorio. Questo è il giardino dell'Eden, dove tocchiamo il sole e risorgiamo insieme. È qui l'origine, nel giardino dell'Eden. La primavera è nuda, bellezza primitiva, stavo cercando te. Grazie a Giuseppe Lamastra, coordinatore dell'Associazione Parchi e Giardini d'Italia, gardenrouteitalia.it, per scegliere o preparare per il futuro un itinerario nella bellezza. A proposito di giardini del futuro, li vedremo realizzati all'ombra dell'Etna la primavera prossima nel corso del Radice Pura Garden Festival, perché questo è il tema della terza edizione della Biennale Siciliana. Giardini del futuro per i quali è ancora in atto la call, vale a dire che chi ha idee in questo senso ancora le può proporre alla giuria del Festival di Giardino Mediterraneo. Ne parliamo tra poco. Il giardino segreto. Siedi qui e getta lo sguardo giù tra gli ulivi, l'acqua è scura quasi. Bentornati. Parlare di giardini mediterranei e di mare a novembre appare fuori moda, ma pensiamo al futuro, alla primavera prossima, quando il parco della famiglia dei vivaisti Faro a Giarre, in provincia di Catania, si arricchirà di nuovi giardini, quelli del Radice Pura Garden Festival, il cui tema della terza edizione è proprio i giardini del futuro. Ma come saranno? Come ce li immaginiamo? E quali piante del verdeggiante mediterraneo ci possiamo portare nelle nostre case per alleviare il momento difficile che stiamo passando? Chiederò tutto questo a Mario Faro, di Piante Faro e presidente del Radice Pura Garden Festival. Ben trovato al Giardino Segreto. Buongiorno a tutti. Buona domenica, Mario Faro. Allora, gettiamo un po' il cuore oltre l'ostacolo e pensiamo davvero al futuro. Tra poco ci siamo, perché insomma noi già pensiamo alla primavera 2021. Ci siamo assolutamente, siamo in pieno fermento per appunto programmare la terza edizione, quindi insomma è già da 6 anni che abbiamo iniziato questa splendida avventura, e l'edizione che ci porterà appunto ad aprile a vedere quali saranno i giardini per il futuro, perché è proprio questo il tema della call di questa terza edizione: quale giardino per il futuro, which for the future. Questo è l'obiettivo, e stiamo aspettando ormai con trepidazione i progetti che saranno appunto oggetto della selezione della nostra giuria internazionale, per vedere appunto quali saranno i giardini del futuro. E credo che non ci sia miglior tema di attualità come questo, per questo periodo drammatico che stiamo vivendo. Una cosa è certa: le piante già ci hanno aiutato e ci stanno aiutando in quest'anno di chiusure, di incertezze, di precarietà, perché c'è stata una richiesta altissima, insomma lo dicono tutti gli operatori del settore. Evidentemente c'è bisogno di portarci la natura vicino, anche dentro casa quando non è possibile uscire, però è anche il momento di pensare a questo punto cosa potranno offrire i giardini del futuro a chi adesso si sta innamorando. Assolutamente, questa pandemia, questo stare obbligati a stare chiusi un po' a casa, ha dato sicuramente, ha fatto riemergere quelle che sono appunto alcune esigenze tra virgolette naturali, quindi di avere più natura a contatto con sé, più spazi aperti, più spazi dove potersi esprimere. Proprio questo, per questo dico l'attualità del tema della terza edizione radice pure a Garden Festival, Giardini per il Futuro. E veramente vorremmo che tutti i paesaggisti che parteciperanno alla call riescano a tradurre questo messaggio, quindi mettere di nuovo la figura del giardino e credo anche del paesaggio attorno come punto principale, cosa che ahimè ancora non credo che nel collettivo, nell'idea collettiva ancora è centrale. E non ci siamo ancora pandemia, arrivati, lei dice. Non ci siamo arrivati purtroppo, ci sono qualche esempio di eccellenza, soprattutto nella pianificazione del vivere, anche nell'urbanizzazione, nel processo urbanistico, quindi comunque ancora non ci siamo arrivati, c'è qualche segnale che ci fa sperare, ma credo obiettivamente che ancora c'è molto da fare e credo che noi vorremmo, come vuol dire, con i nostri giardini, con i progetti un po' solleticare e scuotere un po' le menti, anche qualcosa di più, affinché questo possa essere di nuovo, il giardino possa essere di nuovo al centro. Lei come se lo immagina il giardino del futuro? Io un giardino del futuro me lo immagino che uno spazio, qualsiasi spazio che venga progettato, in primis abbia come riferimento principale appunto la parte, lo spazio fra virgolette verde, che è anche un po' riduttivo dire, ma lo spazio dove poter vivere, dove poter soggiornare in maniera assolutamente naturale e non invece pensare solamente al mattone. Solitamente prima si progetta una casa e poi un giardino. Nella mia idea del futuro è che prima si progetti il giardino e di conseguenza si progetti una casa. Per poi starci bene dentro, è vero? Questo è quello che io auspico, ma non per sostenere quella che è la categoria dei vivaisti o dei progettisti del verde, ma io credo per un benessere generale di tutti. No, ma ce ne siamo accorti tutti, tant'è vero che già la richiesta di abitazioni meno centrali, ma che abbiano uno spazio fuori, un giardino o anche un grande terrazzo, sta aumentando vertiginosamente. Assolutamente, condivido questa tua riflessione, appunto questo dico, pongo l'attenzione su questo, bisogna riprogettare gli spazi, anche le città, e qualche città in Italia ha già preso uno spunto del genere investendo molto negli spazi a verde, che possono essere appunto di corredo a una città più verde, una città che si vede meglio, una città dove anche l'aspetto immobiliare vale anche di più, quindi è un valore aggiunto, non è un perdere terreno, no, anzi è un guadagnare valore. Magari in questo momento ci sono giovani botanici, paesaggisti, architetti che ci stanno ascoltando, magari appunto da una grande città, e hanno qualche idea in questo senso, possono ancora proporla a Radice Pura e magari poi ancora, vincendo, noi potremo vedere questi giardini l'anno prossimo a Giarre. Esattamente, no, noi ancora la call scade appunto alla fine di questo mese, il 30 di novembre, e la giuria si riunirà prima di Natale, credo quest'anno in digitale, non purtroppo di presenza, per scegliere i sette giardini che verranno realizzati. Un'anticipazione, molto probabilmente una parte di questi verranno realizzati quest'anno e una parte invece ci auspichiamo di realizzarli l'autunno prossimo, li splitteremo solamente per un discorso di distanziamento, di contemporaneità della costruzione dei giardini. Ahimè, anche noi dovremmo, anche se viviamo, cioè lavoriamo all'aria aperta, dovremmo comunque sottostare alle leggi giuste che ci sono appunto del distanziamento, e quindi ancora abbiamo un mese di tempo esatto, poco meno, per mandare i progetti, scaricarli dal nostro sito Radice Pura Garden Festival e entro il 30 novembre mandare i progetti. Radice Pura gardenfestival.it è il sito? Sì, la nostra è una call for ideas, e quindi appunto questo, noi non facciamo altro che tradurre le bellissime idee che in tutti questi anni ci sono arrivate dai giovani progettisti. Quest'anno in più anche c'è la possibilità che c'è anche un fuori concorso che può essere anche superiore insomma a 35 anni, perché per adesso la call è agli under 35, quest'anno c'è anche una categoria speciale che è per gli over, quindi tutto sommato abbiamo allargato anche la platea. Anche gli attempati possono proporsi, diciamo così. Ma le buone idee non hanno età. E questi giardini saranno composti con le piante faro? Sì, noi abbiamo a disposizione 500 ettari di produzione florovivaistica che abbiamo a Catania, noi appunto nello specifico tra Giara e Riposto, e quindi i paesaggisti in qualche modo si sentono un po' nel paese dei balocchi, perché non solo hanno a disposizione uno spazio, ma soprattutto hanno a disposizione forse il più grosso materiale vegetale in un solo centro, la quindi non ci prima. Dobbiamo neanche cervellare. Esattamente. Giardini che poi vedremo all'ombra dell'Etna a Giara in provincia di Catania. Mario Faro, prima di salutarla, vuole darci un consiglio proprio per guardare al futuro, visto che insomma lei dire che è esperto di piante mediterranee è poco, per una pianta mediterranea che possa stare anche al nord, anche nelle città, anche sui terrazzi, vabbè non in montagna, mi accontento della pianura padana, che possa essere nuova, stupirci? Guarda, ti dico che col cambiamento climatico, che dovrebbe farci anche questo argomento riflettere, ormai tante specie mediterranee possono prendere spazio, possono attecchire e ben mantenere all'interno sia delle case o dei terrazzi di Milano, Torino, Bologna. Bologna, insomma al nord Italia, anche al nord Europa. Quella che sicuramente si adatta, che per noi è la pianta delle piante, rimane sempre l'ulivo. È una pianta generosissima per tanti motivi, perché comunque da frutti, da appunto prodotti importanti, quale l'olio d'oliva, quindi quella è sempre la pianta che io suggerisco. Ma assolutamente anche delle bellissime piante d'agrumi, che possono prendere ormai come anche un arancio, resistono. Ci sono tanti amici che dicono: Mario, ho comprato una pianta di arancio da te e l'ho messa in terrazzo a Milano e mi resiste. Quindi questo è uno dei pochi vantaggi del cambiamento climatico, potersi godere anche un po' di Mediterraneo nel terrazzo al nord Italia, al nord Europa. Ulivi, agrumi, piante generosissime, come ha detto, piante straordinarie. Ma da lei ci aspettiamo anche una pianta nuova che ci sappia sorprendere, che non conosciamo? Una pianta da scoprire sicuramente potrebbe essere la canfora, la Cinnamomum canfora, che è un cespuglio, un albero sempreverde, generosissimo anche lui, è un po' appunto la pianta della cannella, un po' l'odore trasmette appunto quello della cannella. Si chiama Cinnamomum, ripeto il nome perché magari non tutti lo possono ricordare, Cinnamomum canfora, una pianta che può stare nei terrazzi, può essere un ottimo albero per i giardini, che resiste tranquillamente anche a latitudini più fredde di quelle nostre, dell'Etna e della Sicilia. E come si presenta? È un cespuglione sempreverde, con una foglia verde chiaro, lucida, non perde le foglie, quindi non è a foglia caduca, questo è sempre importante, quindi ci accompagna praticamente non solo durante l'estate, ma è primavera estate, ma anche durante l'inverno. E si può essere sia un cespuglio, può essere un grandissimo cespuglione per fare appunto una macchia verde, o allora un albero a medio-alto portamento. Nello specifico noi la conosciamo bene da scopo ornamentale ed è una pianta che fa bene. Ci sono degli studi che dicono che abbracciarsi alle piante trasmettono appunto delle onde magnetiche che creano benessere. Noi che facciamo questo lavoro lo sappiamo bene, e spero che più persone possibili possano stare a contatto con le piante per trarne benessere. Cinnamomum canfora è la pianta consigliata da Mario Faro di Piante Faro, presidente del Ricepura Garden Festival, appuntamento ad aprile a Giarre in provincia di Catania, e ricepuragardenfestival.it per partecipare insomma attivamente a questa festa del giardino mediterraneo. Grazie Mario Faro. Grazie, sul nostro sito tutte le novità rispetto agli orari e all'apertura, visto anche il periodo complicato e complesso che stiamo affrontando, quindi vi terremo aggiornati con i nostri canali social e sicuramente dal sito per capire se ci sono delle novità o delle restrizioni che saranno appunto dettate ovviamente dalle condizioni sanitarie. Ma speriamo proprio di rivederci, di potersi abbracciare, magari abbracciamo una pianta che non ci contagia, magari non ci potremo abbracciare noi, abbracceremo le nostre piante per avere un contatto diretto. Gli uomini si dividono in quelli che costruiscono e quelli che piantano. I costruttori concludono il loro lavoro e presto o tardi sono colti dalla noia. Quelli che piantano sono soggetti a piogge o tempeste, ma il giardino non cesserà mai di crescere. Paolo Coelho. È tutto per questa puntata. Vi aspetto con le piante alla radio domenica prossima, 15:30. Riascoltate quando volete, se no, cercando il giardino segreto in www.radio24.it oppure attraverso le piattaforme podcast. Una buona settimana, nonostante tutto, da Roberta Pellegatta.